Questo è un podcast di Rivista Militare. Uno scudo di missili, le difese antiaeree israeliane Iron Dome, David Slynn, Arrow e Thad in attesa dello scudo laser. Di Andrea Spada. Negli ultimi mesi Israele ha ripetutamente utilizzato il suo sofisticato sistema di difesa aerea a più livelli per contrastare i ripetuti attacchi missilistici e di droni lanciati dall'Iran, da Hezbollah in Libano, da Hamas a Gaza e dagli Houthi in Yemen. Conosciuto popolarmente come Iron Dome, il sistema di difesa aerea israeliano in realtà si compone di tre sistemi diversi ma coordinati tra loro. Innanzitutto ci sono gli intercettori a lungo raggio Arrow 2 e Arrow 3, sviluppati da Israele in vista di un attacco missilistico iraniano e progettati per colpire le minacce rispettivamente dentro e fuori l'atmosfera terrestre. A questi si affianca il sistema a medio raggio David Slynn, la fionda di Davide, progettato per abbattere missili balistici sparati da 100 a 300 km di distanza. Infine c'è l'Iron Dome vero e proprio, un sistema a corto raggio costruito per intercettare i razzi lanciati da Hamas e da Hezbollah. Tutti questi sistemi di difesa sono stati interamente sviluppati e prodotti da aziende israeliane come Rafael e Israel Aerospace Industries. Come funzionano? Iron Dome è il più noto ed efficace degli scudi missilistici israeliani e secondo l'IDF distrugge il 90% dei bersagli che prende di mira. È progettato per intercettare razzi a corto raggio, oltre a granate e mortai, a una distanza compresa tra i 4 e i 70 km dal lanciatore del missile. Il sistema poggia su una base mobile e può essere spostato da camion o veicoli pesanti in punti strategici. Ogni batteria ha 3 o 4 lanciatori contenenti 20 missili intercettori Temir ciascuno. Iron Dome rileva e traccia i razzi in arrivo con il radar e in pochi secondi calcola quali hanno effettivamente la probabilità di raggiungere le aree popolate. Quindi spara missili solo contro questi razzi, lasciando che gli altri cadano sul terreno aperto. Esiste anche una versione marittima, il Sea Dome, una soluzione di difesa aerea navale agile, a reazione rapida e di piccolo ingombro, che offre una protezione emisferica completa alle navi militari e civili contro un'ampia gamma di minacce aeree. Il sistema, testato e reso operativo dalla Marina israeliana, ingaggia automaticamente e simultaneamente più bersagli da più direzioni. Sea Dome è stato sviluppato dall'industria Rafael per fornire a navi non protette, tra cui OPV, Offshore Patrol Vessel, navi ausiliarie e altre navi e mezzi di supporto navale, capacità avanzate di difesa aerea contro attacchi multipli e simultanei senza la necessità di modificare lo scafo della nave o di integrare una piattaforma complessa. La David Slynn è invece progettata per distruggere razzi a lungo raggio, missili da crociera e missili balistici a medio o lungo raggio da una distanza massima di 300 km. Sviluppato congiuntamente dalla Rafael Advanced Defense System di Israele e dalla Raytheon degli Stati Uniti, è entrato in funzione nel 2017. Come Iron Dome, David Slynn prende di mira solo i missili che minacciano le aree edificate. Sia David Slynn che Iron Dome sono progettati anche per intercettare aerei, droni e missili da crociera. Ogni missile David Slynn Stunner costa circa $1 milione. Come funzionano gli Arrow 2 e Arrow 3? Arrow 2 è progettato per distruggere i missili balistici a corto e medio raggio mentre volano nell'alta atmosfera a circa 50 km sopra la Terra. I lavori sul sistema sono iniziati dopo la prima guerra del Golfo del 1991, quando l'Iraq lanciò decine di missili Scud di fabbricazione sovietica contro Israele. Il sistema Arrow, sviluppato e prodotto dalla Israel Aerospace Industry, è entrato in servizio nel 2000. Può rilevare missili a 500 km di distanza e li intercetta a distanza relativamente breve, fino a 100 km dal sito di lancio. I suoi missili viaggiano a una velocità 9 volte superiore a quella del suono e possono colpire fino a 14 bersagli contemporaneamente. L'Arrow 3 è progettato per intercettare i missili balistici a lungo raggio mentre viaggiano all'inizio del loro arco, al di fuori dell'atmosfera terrestre ed ha una portata di 2.400 km. È stato utilizzato in combattimento nel 2023 per intercettare un missile balistico che gli Houthi dello Yemen hanno lanciato contro la città costiera di Eilat nel sud di Israele. Il sistema è stato sviluppato dalla società statale Israel Aerospace Industry con l'aiuto dell'azienda statunitense Boeing. Nel 2023 gli americani hanno inviato a Israele il sistema antimissile avanzato THAAD, o Terminal High Altitude Area Defense System. Il THAAD è una parte fondamentale delle difese aeree dell'esercito statunitense ed è progettato per intercettare e distruggere le minacce di missili balistici a corto, medio e intermedio raggio nella loro fase terminale di volo. La batteria si è successivamente affiancata ai sistemi israeliani già esistenti Iron Dome, Davis Lynn, Arrow 2 e Arrow 3. I missili THAAD sono progettati per funzionare in modo simile alla fionda di Davide, intercettando i missili nemici nel loro ultimo stadio di volo, a un raggio di 93/125 miglia, ossia 150-200 km, sia all'interno che all'esterno dell'atmosfera terrestre. Le batterie THAAD sono generalmente composte da 6 lanciatori, ognuno dei quali contiene 8 missili. Le forze armate statunitensi utilizzano il THAAD dal 2015 e gli Stati Uniti hanno venduto il sistema sia all'Arabia Saudita che agli Emirati Arabi Uniti. Nel frattempo, Israele sta testando il sistema di difesa Iron Beam, che utilizza raggi laser ad alta potenza per contrastare missili, droni e razzi. Come funziona? Il sistema utilizza un laser posizionato a terra e con un raggio d'azione che va da centinaia di metri a diversi chilometri, riscalda la corazza del bersaglio nelle aree vulnerabili, come il motore o la testata, fino a farlo esplodere. Rispetto all'Iron Dome, un sistema laser sarebbe più economico, più veloce e più efficace, hanno detto gli esperti di Rafael, l'azienda che produce e testa l'Iron Beam con un costo quasi nullo per intercettazione. Il sistema laser sarebbe inoltre più efficace contro i droni rispetto all'Iron Dome, perché quest'ultimo è stato progettato principalmente per contrastare razzi e missili. I droni invece sono più piccoli, leggeri ed hanno una bassa traccia radar. E i sistemi radar di Israele non li rilevano sempre come invece rilevano i missili, che sono più grandi. I droni infine non hanno sempre una destinazione prestabilita e possono cambiare direzione durante il volo. Il podcast di Rivista Militare vi dà appuntamento al prossimo episodio.